24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Valentina Furlanetto a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Olanda, Finlandia, Germania, Svezia e Gran Bretagna si oppongono alla proposta di bilancio rettificativo per il 2012 presentata dalla Commissione europea e riguardante l'esborso da 670 milioni di euro per il terremoto in Emilia-Romagna. Una presa di posizione che farà sicuramente discutere. Sentiamo. La trattativa sembra interrotta, non abbiamo ancora una conferma ufficiale. Oggi i governi dovevano trattare, negoziare, arrivare a un accordo su una rettifica del bilancio 2012. La Commissione ha presentato una manovra e doveva chiedere ai governi il benestare per avere 9 miliardi in più. Alcuni paesi sono entrati nel negoziato rifiutando questa ipotesi e chiedendo in realtà una nuova priorità tra le varie poste di bilancio. Questa situazione ha preoccupato non poco le autorità italiane, che hanno temuto a un certo punto che i fondi europei destinati all'Emilia-Romagna, vittima di un grave terremoto in maggio, potessero in un modo o nell'altro essere bloccati. In realtà tutti i 27 paesi dell'Unione hanno assicurato che questi fondi saranno versati all'Italia. Naturalmente bisogna prima trovare un accordo sul bilancio 2011. In questo momento la trattativa è stata apparentemente sospesa e verrà ripresa martedì. L'approvazione delle nuove misure d'austerità da parte del Parlamento greco sono un importante passo nella giusta direzione, ma un altro voto altrettanto cruciale è atteso per domenica prossima. Poi lunedì la parola passerà all'Eurogruppo. Così Simon O'Connor, portavoce del commissario europeo agli affari economici Olli Rehn. Intanto in Spagna la crisi investe il settore del trasporto aereo. Quando un paese comincia a perdere colpi, prima o poi ogni settore presenta il conto. In una Spagna messa in ginocchio dalla crisi, con 5 milioni di disoccupati, 350.000 famiglie sfrattate negli ultimi mesi, a presentare il conto è la compagnia aerea. Iberia cade sotto il peso di perdite record registrate nel terzo trimestre. I dipendenti che dovranno rinunciare a volare saranno 4.500, un taglio necessario per salvaguardare gli altri 15.500 posti di lavoro. Questo dicono dalla International Airlines Group, società che controlla anche British Airways. La compagnia spagnola brucia 1,7 milioni di euro ogni giorno. Ecco perché bisogna fare in fretta, molto in fretta. IAG ha dato tempo ai sindacati fino al 31 gennaio per trovare un accordo. Senza, i tagli saranno maggiori. Iberia, da sempre forte sulle tratte latinoamericane, è in perdita su tutti i suoi mercati. Negli anni i competitor sono diventati più agguerriti e meno costosi. Oltre al taglio di quasi un quarto dei dipendenti, il raggiungimento degli obiettivi passerà da una riduzione del 15% della capacità della rete, così da concentrare la compagnia sulle tratte redditizie. Prevista anche una riduzione della flotta di 25 aerei. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per il quarto mese consecutivo la BCE ha lasciato invariati i tassi di interesse. L'avrete sentito, il presidente Mario Draghi ha parlato anche della crescita debole del vecchio continente, un andamento confermato anche per il prossimo anno. L'eurozona rimane a crescita debole e con un'inflazione al 2% nel 2012. E dopo 10 anni le banconote dell'euro cambiano immagine e riportano una figura della mitologia greca, ma le casse della BCE resteranno chiuse per Atene. Queste le novità annunciate dal presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Dunque l'inflazione non scenderà nella parte finale dell'anno, ma nel 2013. Non solo. Draghi ha rimarcato che la crescita è stata debole nel secondo semestre di quest'anno. Il presidente ha poi annunciato il nuovo euro cartaceo anticontraffazione. La serie di banconote si chiamerà Europa e raffigurerà il vecchio continente con un simbolo tratto dalla mitologia greca. Il primo taglio, da 5 euro, comincerà a sostituire le banconote in circolo dal gennaio 2002. Ma il riconoscimento della BCE alla Grecia si limita soltanto alla mitologia. Infatti Draghi, pur salutando con favore il voto del Parlamento greco ai nuovi tagli, non ha mostrato disponibilità a sostenere l'economia del paese. Noi non possiamo fare finanziamento monetario, ha detto in proposito. Infine, il numero uno della BCE si è limitato a un no comment su un'eventuale richiesta di aiuto da parte della Spagna. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ridare slancio alla competitività dell'industria europea dell'auto, questo è l'obiettivo del piano Cars 2020 approvato dalla Commissione europea su proposta del vicepresidente Antonio Tajani. Il piano, nell'ambito del quale dovrebbero essere messi a disposizione oltre 2 miliardi di euro di finanziamenti europei a fondo perduto, punta sullo sviluppo dell'auto verde e di quella elettrica, nonché sul coordinamento delle ristrutturazioni industriali. E ora parliamo delle borse. I dati americani migliori delle attese hanno sostenuto i listini europei nell'ultima parte della seduta. Le borse hanno così recuperato gran parte delle perdite accusate a metà giornata, chiudendo contrastate. Piazza Affari ha terminato la giornata poco mossa, con il FTSE MIB a meno 0,09%, Parigi a più 0,47%, Francoforte meno 0,58%, Londra meno 0,11% e Madrid più 0,16%. L'Europa è scivolata con Crédit Agricole, che è calata dell'8,63% e che ha diffuso i dati trimestrali con una perdita di 2,85 miliardi nei 9 mesi. Sotto pressione anche Commerzbank, meno 5,99% e Sogen, meno 4,7%. E ora cambiamo argomento. Piano d'azione in vista per la ripresa economica di Europa centrale e Balcani, con un pacchetto finanziario di oltre 30 miliardi di euro. A scendere in campo sono la Banca Europea di Investimenti, la Banca Mondiale e la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo per il periodo 2013-2014. L'obiettivo congiunto è quello di rilanciare la crescita in 17 paesi della regione alle prese con l'impatto della crisi dell'Eurozona, dando sostegno ai progetti nei settori pubblico e privato, incluse infrastrutture, investimenti societari e settore finanziario. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto al Quirinale il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Nell'occasione è stata conferita l'onorificenza di cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di Merito della Repubblica Italiana. Erano presenti il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, il ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi, il sindaco e il vice sindaco di Stazzema Michele Silicari e Maurizio Verona. La commissaria europea alla pesca, cambiamo completamente argomento, Maria De Manacchi, ha annunciato ieri l'avvio dei negoziati per un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca tra Unione Europea e Marocco. L'obiettivo della Commissione è concludere un partenariato rinnovato in linea con la riforma della politica comune della pesca e la sua dimensione esterna, assicurando il massimo beneficio per entrambe le parti. Allora sentiamo la commissaria particolarmente soddisfatta. It's a very, very important negotiation which is going on. Si tratta di una trattativa estremamente importante. Ho visitato il Marocco l'anno scorso e vi è esigenza di fissare un nuovo protocollo d'intesa. Quindi questo protocollo d'intesa sarà la piattaforma per una nuova politica internazionale, un nuovo accordo in materia ittica e verterà essenzialmente su 3 punti. Il primo è sostenibilità e soltanto quindi per quanto riguarda l'eccedenza. Il secondo punto è un giusto valore per i soldi spesi, e quindi i soldi in questo caso dei contribuenti, e il terzo punto è il raggiungimento di un accordo in pieno rispetto del diritto internazionale e dei nostri obblighi. E mi auguro che alla fine questo accordo estremamente importante possa giungere a conclusione positiva, perché sarà estremamente importante per tutti gli Stati membri. Will be able to finalize this agreement and it will be very, very important for a lot. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto da Valentina Furlanetto. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.